questa piccola realtà è sempre molto attiva. Ci siamo dati un motto che cerchiamo di rispettare rigorosamente, che è quello di fare ogni giorno qualcosa perché i nostri utenti tornino a casa con così, la sensazione che qualcosa possa cambiare sempre in meglio, ecco, in ognuno di noi. E questo soprattutto avviene se avviene attraverso il sapere, la conoscenza, la possibilità che un cambiamento è sempre possibile. Dobbiamo darci ognuno di noi una chance. E questo passa attraverso tanti canali, tante suggestioni, tante informazioni soprattutto, e una di queste è un'occasione preziosa che Eddie Rabini ci ha offerto alcuni mesi fa. E così ci ha detto: ma facciamolo in primavera, che è un momento bellissimo e quanto mai propizio per affrontare un tema del genere. E purtroppo proprio Eddie Rabini oggi non può essere con noi per un gravissimo motivo, e abbiamo con noi Marco Boato, l'onorevole Marco Boato, che prenderà la parola, ecco, al suo posto. Ecco, io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, le signore qui presenti. Ricordo appunto Grazia Barbiero, che è la curatrice del libro che verrà presentato questa sera, Emilia Grazia De Biasi, che è la presidente della Commissione Sanità del Senato, Claudio Greif, che è il primario di oncologia, e appunto la Fondazione Alexander Langer, che questa sera è rappresentata da Marco Boato, ma è qui con noi anche Mohsen Farsad, che è il vicepresidente della Fondazione, che saluto. Grazie di essere venuto anche a lei. Ringrazio tutti voi della partecipazione numerosa e calorosa che garantite sempre anche alle nostre iniziative. Siamo particolarmente contenti ed onorati questa sera di poter presentare un libro particolare che appunto riassume quelli che sono i risultati del premio internazionale Alexander Langer alla Camera dei Deputati dal 1997 al 2012. Titolo appunto Costruttori di pace, saltatori di muri, esploratrici di frontiera. Ringrazio i nostri ospiti, invito anche sempre il pubblico a frequentare le biblioteche, perché forse anche dalla biblioteca, da un posto libero, democratico, dove si può entrare, uscire, prendere in prestito dei libri, avere delle informazioni, poter imparare senza limiti di età quelle che sono le nuove frontiere del sapere, come un tablet, come si usa un tablet, come si utilizzano le risorse gratuite di una biblioteca anche attraverso il web. Ecco, questo è un modo per cambiare, per crescere e per entrare in sintonia con altre persone in modo nuovo, ecco, attraverso canali sempre nuovi, diversi e sempre anche attuali, ecco, per non perdere mai il filo con quella che è la realtà che ci circonda. Non aggiungo altro, vi invito solo a guardare il nostro sito e tutti gli appuntamenti che ci inventiamo di giorno in giorno. Grazie e grazie a voi di essere venuti. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie alla dottoressa Trevisan che ci ospita nella sala della biblioteca Claudia Augusta, grazie per le parole che ci ha riservato. L'ultima cosa che avrei pensato oggi venendo in treno da Trento a qui, con un po' di anticipo, perché avevamo concordato con Edi, con la senatrice De Biasi e con la dottoressa Barbiero di andare a trovare il primario Claudio Greif, uno dei promotori, dei donatori di musica che hanno vinto il premio internazionale Alexander Langer l'anno scorso. L'ultima cosa che mi sarei pensato era di non essere seduto come voi fra il pubblico e invece di dover supplire malamente e improvvisamente alla presenza mancata, in questo caso di Eddie Rabini, che è l'anima insieme a tanti altri della fondazione, scusate. Sono un po' emozionato, lo capirete subito perché qualcuno di voi lo sa, della Fondazione Alexander Langer. 2 ore fa esattamente, alle 4:10, proprio all'ospedale qui di Bolzano, è mancata Bruna, la moglie di Eddie Rabini. E Eddie era venuto con noi, ci eravamo trovati qui in Piazza Walter per andare a trovare il dottor Greif. Ovviamente lui sarebbe passato anche a trovare sua moglie, che era stata nuovamente ricoverata, ma proprio nel momento in cui siamo arrivati in ospedale Lei li ha preso dalle sue figlie che erano lì con la madre che se ne stava andando, e poi dopo pochi minuti se n'è andata. Quindi siamo andati a salutare, si può così dire, Bruna, salutare Elia, salutare le figlie. Edi mi incarica di salutare tutti voi, di ringraziarvi per la vostra presenza, di scusare la sua assenza questa sera, credo che Edi non sia mai mancato a nulla di ciò che ha riguardato in tutti questi anni, da 15 anni e passa, la Fondazione Langer. Questa sera manca per questo motivo. Il libro che presentiamo questa sera, che voi vedete anche esposto lì, ve lo faccio vedere, è un libro di una ricchezza, poi ne parlerà anche la senatrice De Biasi, Grazia Barbiero, di una ricchezza straordinaria. E non solo perché non è un libro fatto dalla Fondazione, ma è un libro fatto dalla Camera dei Deputati, io stesso ho fatto parte molto, molto a lungo, ma perché io vi invito, chi lo vuole consultare, lo trova qui anche, quella copia che è esposta è la copia della biblioteca, però ce ne sono una ventina di copie a disposizione, costerebbe 12 euro, viene venduto a 10 mi pare qui, mi pare che chi volesse comprarlo, è un volume di una straordinaria ricchezza, perché non soltanto presenta tutti gli, fino al 2012 gli ultimi, tutti i premi Langer da quando è stato istituito. Alex, come sapete, è morto il 3 luglio del 95, poi si è costituita la fondazione, poi il primo premio Langer è del 97, si arriva fino al 2012. Ci sono una serie anche di presentazioni da parte dei vari presidenti della Camera che si sono succeduti, tutti i presidenti della Camera hanno sempre accettato fino all'attuale, l'onorevole Boldrini, che in altre circostanze avrebbe voluto anche essere lei presente qui a Bolzano, ma mi diceva la senatrice De Biasi che essendoci la legge elettorale in queste ore in discussione proprio oggi alla Camera ovviamente non poteva venire, ma forse ci sarà una futura occasione. Ci sono le presentazioni di tutti i protagonisti dei vari premi internazionali Alexander Langer che si sono succeduti in questi anni, che sono essi stessi un panorama straordinario di umanità, di cultura, di civiltà, di impegno sociale, politico, culturale, civile. E poi c'è una seconda parte del volume. Ci sono dei testi anche di Alexander Langer, in particolare i 10 punti per la convivenza interetnica, e poi c'è una sezione scritta con corpo un po' più piccolo perché è densissimo, il volume sarebbe diventato perfino troppo grosso, fatto dal Servizio Internazionale della Camera dei Deputati, che è un ottimo servizio, che per ogni paese da cui sono provenuti in questi anni o provenute in questi anni le biciclici e i vincitori del premio Langer, hanno fatto una scheda paese ricchissima analizzando ciascun singolo paese a livello internazionale in appendice a questo volume. Non è un appendice, è una parte integrante di questo volume, di una ricchezza straordinaria. Io ho avuto l'onore e mi ha fatto piacere che nella testimonianza che è qui riportata del primo dei vari presidenti, Luciano Violante, Casini, Bertinotti, la prefazione di Fini, adesso c'è ancora un altro presidente, la Boldrini, nella prima di questi ricordi del premio Luciano Violante inizia dicendo, e mi ha fatto piacere, è stato Marco Boato che mi ha proposto nel 97, o forse addirittura già alla fine del 97, di ricevere qui alla Camera i vincitori anno dopo anno del premio internazionale Alexander Langer. È vero, però devo anche dire che io stesso non avrei avuto questa iniziativa se una piccola grande donna, piccola solo come dimensione, grande come animo, come cultura, come impegno, si chiama Grazia Barbiero ed è qui con noi, e poi è una sottilodese che da molti anni lavora alla Camera dei Deputati, non è forse stata lei l'ispiratrice di questa avance nei confronti dei presidenti pro tempore della Camera. Grazia è la curatrice di questo volume, quella che ci ha dato anima e corpo, che ha stimolato le rappresentanti parlamentari, le donne della Camera dei Deputati, adesso la senatrice Emilia De Biasi, come dice, senatrice è passata al Senato, ma fino all'anno scorso era una deputata, e una deputata dell'ufficio di presidenza della Camera, con cui Grazia Barbiero per molti anni ha collaborato. Ma Emilia De Biasi non si è limitata a, virgolette, utilizzare questo ruolo fecondo e nascosto, perché grazie a questa caratteristica di lavorare tantissimo, ma di rimanere neanche in seconda, ma in terza, quarta, quinta fila, cioè di rimanere sempre con grande pudore indietro, ma in realtà se non ci fosse stata lei in tutti questi anni, questo straordinario impegno collegiale di tante e di tanti, non ci sarebbe stato. Però Emilia De Biasi, negli anni in cui è stata lei protagonista della questa iniziativa che ogni anno si tiene alla Camera dei Deputati, si è tenuta anche l'anno scorso, non troverete qui riferimenti all'ultimo premio internazionale Alexander Langer, quello dato l'anno scorso ai donatori di musica, perché si arriva al 2012, ma qui abbiamo carne ed ossa il protagonista del premio internazionale Alexander Langer 2013 dato ai donatori di musica, il fondatore, promotore dei donatori di musica, di cui parlerà lui dopo, non devo parlare io, che è il dottore, il professor Claudio Greif, che è il primario di oncologia qui all'ospedale di Bolzano. Ma Emilia De Biasi, negli anni in cui si è resa lei coprotagonista, si è in qualche modo impadronita della cultura, dell'etica, starei per dire della spiritualità del premio, non perché sia una cosa astratta, è la spiritualità incarnata nell'impegno civile, nell'impegno democratico, nell'impegno internazionale, nella capacità di attraversare le culture, abbattere i muri, saltarli. Sono queste frasi che sono messe qui, dell'importanza di mediatori, che già la dottoressa Trevisan ha letto, dell'importanza di mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratrici di frontiera. Questa frase di Alexander Langer dice tutto di Alex, di che cos'era Alexander Langer da vivo, cosa ha fatto nel suo impegno qui in Sud Tirolo, in Italia, in Europa, in Bosnia, in Medio Oriente, in America Latina e in tante altre parti del mondo, e qual è l'ispirazione, quindi, per cui di anno in anno la giuria scientifica, diciamo, del premio Langer decide di volta in volta a chi assegnarlo. Quindi questa sera abbiamo, sia pure con questo velo di tristezza, un po' più che un velo per dire la verità, per la morte di Bruna, che anche lei insieme a Edi è sempre stata presente a tutte le iniziative della Fondazione Langer ed era amica fraterna di Alex durante la sua vita. Il fatto che Bruna non ci sia più da 2 ore e 10 minuti sono un velo di tristezza, ce lo porta dentro il cuore e anche dentro la mente, ed è la ragione per cui vi ripeto un po' di commozione nel parlarne, ma non dico superato, ma cercando di affrontare anche questo momento. Chi mai avrebbe detto che questa serata sarebbe concisa con questa esperienza di morte? E noi qui questa sera abbiamo veramente la possibilità di 3 protagonisti fondamentali. Ripeto, finisco, grazie a Barbiero, che è stata la curatrice del libro, ma è stata a suo tempo amica sodale di Alexander Langer, perché erano in 2 gruppi consigliari diversi, qui nel consiglio provinciale di Bolzano e nel consiglio regionale del Trentino Alto Adige, ma nessuno si sarebbe accorto dell'etichetta diversa, tanta era la sintonia di valori, di cultura, di impegno che c'era in Alex e in Grazia, quando Grazia aveva un ruolo di rappresentanza politica nella sua provincia e regione di origine. Ma ripeto, Grazia in tutti questi anni è stata a Roma l'anima, il corrispettivo a Roma del premio Langer a Bolzano. Ho detto della senatrice De Biasi, che adesso è anche presidente della Commissione Sanità al Senato, e se non rivelo un segreto in questo colloquio, sia pure reso un po' drammatico dalle circostanze in cui ci trovavamo, abbiamo avuto col professor Greif nel suo studio all'ospedale di Bolzano, prima di andare poi a dare l'ultimo saluto a Bruna, beh, c'è stato uno scambio di informazioni, di conoscenze e così via, e chissà che da questo incontro qui a Bolzano oggi non nasca anche un ruolo di protagonista del professor Greif, insieme a tutta l'esperienza dei donatori di musica, ufficialmente di fronte alla Commissione Sanità del Senato, di cui la senatrice De Biasi è presidente. Insomma, tutte le strade si intersecano. L'unico premio Langer che non trovate in questo volume, lo trovate in carne ed ossa qui questa sera, e fra l'altro ho visto che all'ingresso, in quello scaffale che c'è lì, ci sono molte copie di un, posso prendere un secondo, di questo numero unico della rivista Una Città, L'arte di prendersi cura, un numero stupendo. Credo che sia offerto con 3 euro soltanto di rimborso delle spese tipografiche. È un numero bellissimo in cui chi di voi lo potrà prendere e se lo porterà a casa troverà una ricchezza straordinaria, perché il professor Greif potrà parlare qualche decina di minuti stasera, ma non potrà raccontare tutto, e quello che non vi riuscirà a raccontare lui fra poco lo troverete in questo fascicolo, che completa idealmente il volume sul premio internazionale. Questo è il tuo, ecco. Mi fermo qua, scusatemi anche perché per me è stato proprio ready nell'abbracciarmi, mi ha detto ti prego di dire tu 2 parole al mio posto, io non ci avevo pensato, mi sono venute come mi sono venute, con molta emozione e con un po' di tristezza, come tanta tristezza, però rendiamo comunque, facciamo onore a questa occasione, e a questa occasione che ci è data dall'ospitalità della Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta, e do senz'altro la parola a Grazia Barbiero, poi parlerà la senatrice De Biasi, per ultimo il professor Claudio Greif. Chiunque di voi voglia, dopo i loro 3 interventi, intervenire, portare una testimonianza, fare le domande, qualche domanda alle relatrici e al relatore, o portare la propria testimonianza, è libero di farlo compatibilmente con i tempi. Dottoressa Trevisan, entro che ora dobbiamo chiudere qui? Andiamo avanti fino alle 7:30, sì. Siamo in un edificio civile, in condominio, sì. Sì, vabbè, comunque abbiamo 1 ora e 5 minuti, sì, io credo che 20 minuti per 20 minuti per qualche intervento e testimonianza o domanda da parte vostra ci sarà senz'altro. Grazie, e la parola a Grazia Barbiero. Emilia De Biasi, componente dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati fino alla scorsa legislatura, quando ha presentato questo lavoro alla Camera, appunto, dei Deputati, alla fine della scorsa legislatura, in una sala del Mappamondo strapiena, alla presenza di Shirin Ebadi, l'iraniana premio Nobel per la pace, insieme alla ruandese Yolande Mukagasana, una donna eccezionale, una donna che è riuscita a opporsi assieme a Jacqueline Mukansonera al clima di odio che aveva generato il genocidio in quel paese. E noi l'abbiamo conosciuta, Yolande, proprio l'anno dopo l'eccidio che si è verificato in quel paese, ed è tornata l'anno scorso per raccontarci com'era diventata la sua vita dopo i gravi lutti che aveva subito. È ritornata nel suo paese, pensate, che coraggio. Avevamo anche una tunisina, Alem Belage, una donna che ha partecipato nei mesi scorsi alla scrittura, alla riscrittura della nuova Costituzione tunisina. Aveva partecipato alla primavera araba, e per fortuna questa esperienza tunisina è la più felice, quella che si è risolta meglio, perché voi sapete che altre esperienze di primavere arabe sono purtroppo finite male, nel sangue. Ebbene, Emilia, quando ha presentato questo libro, aveva dichiarato tutta la sua emozione per il fatto di presentare un lavoro che era molto più di un libro, io voglio usare proprio le sue parole, così aveva detto, aveva ricordato, e si trattava di trovare in queste pagine la storia delle lotte per i diritti umani nel mondo, e aveva ricordato che si trattava di rintracciare la storia di interi popoli. Quindi il premio internazionale Alexander Langer ha proprio questa missione, quella di far affiorare la vita invisibile che cerca faticosamente di trovare il suo spazio nella storia. I premiati infatti non sono quasi mai già noti, no? Non sono persone conosciute, a parte Khalida Messaoudi, Khalida Toumi Messaoudi, la nostra prima premiata del Langer, che è stata la prima donna in Algeria e la prima donna nel mondo ad essere condannata a morte dalla Sharia, dai fondamentalisti islamici. Una donna bellissima, con i capelli rossi, la pelle bianca, non ce l'aspettavamo così, aspettavamo una donna algerina con i tratti della pelle scura, scuri. Invece troviamo una donna, una berbera, orgogliosa di sé, professoressa di matematica, che ogni sera era costretta a vivere in un nascondiglio diverso, in una casa diversa, perché era stata la prima donna condannata a morte dall'islamismo più radicale nel mondo. Quella donna aveva portato la sua grande esperienza, la sua esperienza coraggiosa, e ora è ministro della cultura del governo algerino. Bene, continuo, a parte diciamo questa figura di Khalida, che era già nota quando è venuta a Roma la Camera, che era preceduta diciamo dalla sua fama, tutti gli altri ospiti, tutte le altre ospiti sono, se così posso dire, gente normale che agisce e soccorre chi ha bisogno e che trova inevitabile non girarsi dall'altra parte di fronte al destino degli altri, che non accetta di essere complice. Persone, in maggioranza donne, lo vedrete leggendo il libro, che hanno davvero concretamente nella loro realtà di provenienza fatto quello che ha ricordato prima Marco Boato. Hanno davvero costruito ponti, hanno davvero saltato muri, hanno esplorato le frontiere e hanno mediato tra culture, etnie, appartenenze religiose diverse nel modo più nobile proprio del termine. Quindi la mediazione ha un concetto alto, no? Non è il compromesso deteriore di cui sentiamo spesso parlare purtroppo, ma ha un valore fondante per l'identità, le nuove identità culturali che sono multiple, no? Che non sono più singole. Ecco, grazie al premio, molte di queste persone sono passate dall'invisibilità alla visibilità, e le motivazioni del loro agire, se andate a leggere il libro, sono semplici e inequivocabili e non sono mai, questo è importante per me, ideologiche o complicate. Mi piace ricordare subito che la pagina più significativa del libro mi sembra sia, cioè, penso sia la pagina 32. È la pagina che ha il minor numero di parole, anzi, ne ha pochissime. E sotto un titolo significativo, La geografia del coraggio, trovate la mappa dei paesi di provenienza degli assegnatari e degli assegnatari del premio. Trovate la scacchiera mondiale che va dall'Algeria fondamentalista e crudele, cruenta di Khalida Toumi Messaoudi, al Ruanda del genocidio di Yolande Muka Gasana e Jacqueline Mukansonera, e poi alla Tunisia della primaverale araba di Alem Belaj. Ora un passo indietro. È il 1996, primo governo di Romano Prodi. L'Ulivo ha vinto le elezioni politiche. Nel paese c'è grande soddisfazione, è un'epoca, una fase di potenti speranze. Due anni prima, nel 1994, la Lega, che farà cadere due anni dopo il primo governo Berlusconi più destra, arriva vincente a Palazzo Montecitorio con un altissimo numero di parlamentari, una specie di esercito con tanti fazzoletti verdi. E cosa fa per prima cosa? Come carta d'identità fa rimuovere il busto di Aldo Moro dalla sala del piano nobile al secondo piano e ordina ai commessi di portare quel busto in cantina nei magazzini della Camera. Ma in quel 1996 il busto di Aldo Moro viene riportato su, rimesso al suo posto. Questo per dire qual era il clima in cui è nato questo premio. E io inizio a lavorare all'ufficio di presidenza proprio in quella legislatura. Langer era morto da un anno. Il presidente della Camera è Luciano Violante, come ha ricordato Marco Boato. Ed è proprio Marco Boato che organizza in quell'anno un convegno in memoria di Alexander Langer. E vi partecipo anch'io. Edi Rabini pensa ad un premio da intestare a suo nome. Marco, come ha ricordato lui stesso, ne parla con il presidente della Camera di allora e riceve un sì convinto. Anch'io mi do da fare, parlo con il presidente della Camera, gli propongo un piccolo dipartimento di lavoro da collocare proprio alla presidenza, con protagoniste le deputate che ne fanno parte, un piccolo dipartimento che si occupi di conflitti, pratiche di pace in tempo di guerra, diritti umani, dialogo interreligioso e interetnico. All'inizio del 1997 ho curato la prima edizione del premio alla Camera e sarà così per tanti anni, ogni anno, con 5 presidenti della Camera diversi, Violante, Casini, Bertinotti, Fini ed ora Laura Boldrini. Tutti uniti, come potete leggere nel libro, dalla stima per Alexander Langer e dalla consapevolezza dell'alta qualità, dell'ottima qualità del premio internazionale Alexander Langer. Scegliamo una sala del piano nobile del palazzo e scegliamo non a caso quella del cavaliere, che è la più colloquiale, quella dove tutti, presidente, parlamentari, ospiti, si siedono in circolo ad ascoltare a vicenda. Non c'è podio, non ci sono cattedre. Senza retorica, per averlo conosciuto, posso dire che Alexander Langer, questa scelta sarebbe piaciuta. Emilia De Biasi, che abbiamo qui l'onore di avere con noi, deputata della presidenza, segue per ben 5 anni il premio, tutta la scorsa legislatura, la lunga scorsa legislatura. Ne è l'artefice e tra tutte le deputate di ogni legislatura è la più appassionata e competente. Per questo farei un applauso ad Emilia. Aspettate a sentirmi parlare prima. Il presidente Fini, che doveva essere il presidente più lontano dallo spirito di Alexander Langer del premio, ci riserva una buona sorpresa. Allarga le braccia con sorprendente sensibilità a questa iniziativa. All'inizio i suoi collaboratori ci avevano detto: se volete fare il premio Langer non lo fate a Palazzo Montecitorio e non lo farete neanche alla presenza del presidente della Camera, lo farete in un palazzo attivo. In 2 giorni il presidente Fini convoca le deputate alla presidenza e dice: no, io sono un uomo cambiato, sono davvero cambiato, faremo il premio Alexander Langer alla Camera, lo faremo a Palazzo Montecitorio e lo faremo sempre alla mia presenza. E così sarà. Torniamo ad oggi, marzo 2014. Io desidero ricordare 2 bellissimi incontri che si sono svolti in questi giorni a Palazzo Montecitorio e che hanno a che fare con la giornata di oggi. Il 5 marzo viene presentata una ricerca, la prima su questo fenomeno poco indagato ma di grande importanza nella società globale di oggi. Si parla di minori migranti non accompagnati, così li definisce in gergo burocratico l'ONU, ma questi bambini migranti non accompagnati, questi minori migranti, sono bambini in carne ed ossa. Sono bambini che da soli attraversano a piedi il deserto, addirittura più deserti alcuni, lo fanno a piedi. Il loro viaggio dura mesi, ma a volte dura addirittura anni. E quando approdano sulle coste, sulle coste, sulle nostre coste, sulle belle coste dell'Italia del Sud, affrontano da soli, senza genitori, la perdita della loro cultura d'appartenenza e ne incontrano un'altra, dove si fermano. A volte vengono accolti in centri di accoglienza, spesso precari, molto precari. Sono chiamati per nome in questa ricerca dall'antropologa Antonella Di Nuzzo, che ci parla dei bambini chiamandoli per nome e ci ricorda per esempio come Mustafa, da bambino e da ragazzo, crea una micro comunità in campagna con altri bambini e ragazzi, tutti contrassegnati dal fatto di avere un'identità plurima, formata dai resti dell'identità perduta e intrecciata ai frammenti di quella nuova che trovano nel posto in cui sono andati a vivere. Ebbene, Luigi Manconi e Marco Braghero hanno detto proprio in questa giornata del 5 marzo, quindi pochi giorni fa, guardate che questi bambini che hanno attraversato a piedi deserti, come si faceva una volta quando gli spostamenti grandi nelle epoche antichissime avvenivano sempre a piedi, ebbene questi bambini, come nella realtà e anche come nella mitologia, sono loro degli importanti mediatori, sono costruttori di ponti, sono veri saltatori di confini, esploratori di frontiera, nel senso che Alex Langer aveva dato a questi termini. Capisco subito, così come capiscono le persone che ascoltano la ricercatrice e i relatori, capiscono ovviamente quello che sappiamo tutti, che bisogna tornare ad essere includenti, accoglienti in una fase di crisi del sistema di cittadinanza che da inclusivo, che è una grande conquista del Novecento, tende a rovesciarsi nel suo opposto, e assistiamo purtroppo a nuove forme di esclusione e il paradigma va rovesciato. Inclusione ed accoglienza non vanno lubricati sotto la colonna dei costi, ma devono essere considerati degli investimenti per il presente e per il futuro. Secondo convegno, il 6 marzo 2014, sempre in una delle sale di Palazzo Montecitorio, il 6 marzo si celebra la giornata dei giusti, proclamata nel 2012 dal Parlamento Europeo. Sono presenti Gabriele Nissim, Emanuele Fiano, altri, e si parla dell'eredità tragica del Novecento. Da un lato questo secolo ha fatto affiorare gli aspetti peggiori dell'essere umano. Hitler e anche Stalin, su un altro versante, volevano paradossalmente il bene, non il male, ma erano tentati dal bene, come ci ricorda Todorov, ce lo ricorderà anche Emilia nella bellissima introduzione a questo libro. Quindi non sono attratti dal male, ma hanno deportato, torturato, umiliato, annientato popoli interi in nome della tentazione del bene. Ma alcuni individui hanno per fortuna illuminato quest'epoca oscura con i loro esempi, con i loro scrittori. Penso a Margaret Buber-Neumann, penso a Primo Levi, che ci hanno dimostrato che è possibile resistere al male senza considerarsi un'incarnazione del bene, e che ci hanno restituito la speranza nel legno storto dell'umanità. Ecco, penso che in tempi di globalizzazione e di crisi di identità, in un momento in cui uno spirito del tempo molto aggressivo pretende che tutto sia omologato a me, alla mia cultura, al mio modo di vivere, da cui discende un vero fastidio per il diverso, percepito vicino e anche minaccioso, io credo che il libro di oggi ci viene in soccorso e ci dice un sacco di cose utili per vivere bene con chi è diverso, con chi è diverso da noi, con chi non deve farci paura, ma con cui vogliamo costruire insieme identità nuove. Bene. Sempre in questo incontro riecheggiano anche le parole di Esther Benbassa, che dice che c'è qualcosa di eterno e di infinito nell'umano, e lo dice nel suo bel libro sulla sofferenza come identità. Dice che nessun spirito di nessun tempo riesce mai completamente a distruggere, e la memoria è importante se è legata al suo superamento. E mi viene in mente una cosa detta da uno scrittore arabo, che dice: certo che voglio voltare pagina, ma prima vorrei leggerla. E anche noi faremo così con il libro. Io penso che i giusti, i soccorritori in genere, offrono a tutti noi una grande lezione educativa sulla possibilità di dire no in ogni condizione, anche nelle condizioni più difficili, quelle in cui sembra impossibile, no? Andare controcorrente, ma è proprio l'andare controcorrente che è coraggio e che ci predispone a un futuro migliore e a un futuro di pace. Bene, se noi guardiamo la rastrelliera dei vincitori e delle vincitrici del premio Langer, vediamo che sono persone appartenenti a religioni diverse, vediamo che sono mosse da motivi distanti, ma sono accomunate tutte dall'idea di aver fatto nulla di più del loro dovere. Ecco, non pensano di essere capite degli eroi, pensano di aver fatto niente di più del loro dovere, di ciò che si doveva fare. Il loro comportamento è come se avesse risposto ad una domanda innanzitutto umana. E ancora, in un'epoca in cui vince l'indifferenza verso le sorti di tanti, pensiamo a quello che succede in Siria, in Egitto, in Ucraina, in un'epoca in cui ci sono ancora, e come se ci sono, le pulizie etniche, i diversi muri, tanti muri ancora, e ghetti. Ebbene, in un'epoca in cui l'indifferenza diventa spesso ostilità verso i rifugiati, i profughi, i migranti, bene, in quest'epoca qua, questo libro e questo premio sono di grande, grande attualità. Ed è facendo questi pensieri che capiamo che non è inevitabile girarsi dall'altra parte di fronte al destino degli altri, di fronte al destino di chi conosciamo e che c'è magari vicino, ma di fronte al destino anche di chi invece è più lontano. Sì, la cosa che non dobbiamo fare è quella, girarci dall'altra parte. E le persone che raccontano le loro storie, che sono raccolte in questo libro, non sono eroi, no? Non sono eroine solitarie, ma gente normale, direi io, che si indigna e non accetta di essere complice. Gente comune, attiviste politiche, vicine di casa come Yolande e Jacqueline, suore, principesse, contadini, medici, musicisti, e abbiamo un debito infinito verso queste persone e verso la loro responsabilità morale. Credo che i premi Langer abbiano attuato la politica del ricordo, la volontà fondamentale di lasciare tracce, raccogliere informazioni, fare cose concrete, assumere quella che chiamavo prima responsabilità morale. Un filo rosso mi sembra che accomuni i premiati e le premiate, e questo filo rosso ci permette di ragionare sulla consapevolezza di un destino comune che ci porta a valutare in ogni momento da quale parte stare. Noi dobbiamo sempre pensare: ma da quale parte vogliamo stare? E che fa dire questa domanda? Fa dire semplicemente che il male non è inevitabile, come dice Todorov. Sto per avviarmi alla conclusione. Liliana Segre ci ricorda che accanto ad una memoria del male c'è infatti una memoria del bene. Io penso che i premi Langer, appunto, come ho detto prima, no, rappresentino proprio questa memoria del bene. E dice la Segre che questa memoria del bene non dobbiamo tradirla, e penso che sia un grande insegnamento è un insegnamento per usare nel modo migliore la storia e la memoria. Vorrei concludere ricordando l'esperienza di un poeta creolo, Glisson, morto non tantissimo tempo fa, che ci ricorda che viviamo in un mondo meticcio, che ci suggerisce che dobbiamo evitare ogni tipo di apartheid. Glisson contesta chi dice non ci capiamo e allora viviamo separati. Senza fare dei parallelismi forzati e senza tirare nessuna corda, voglio comunque ricordare che Alex Langer è vissuto in un contesto plurilingue in cui, in quei tempi, l'assessore alla scuola e alla cultura di lingua tedesca, Anton Zelger, diceva: più ci dividiamo, più ci capiamo. Erano gli anni 70, il 1979 per essere precisi. Ebbene, Alexander Langer aveva detto no e anche Glisson ha detto no. Anche se non ci capiamo completamente, possiamo convivere. L'opacità non è un muro, lascia sempre filtrare qualcosa di chi non conosciamo proprio bene. Convivere, allora, penso che non sia una grazia che viene da altrove, ma una civiltà da produrre, e c'è una sola strada, secondo me: tentare, ripartendo sempre dall'uomo, dall'umanità. Ricostruire la strada dell'amicizia, esigente e fedele, che può curare anche le ferite più gravi. Grazie. Grazie Barbiero. Non so se questo non funziona più. Non sta più. Non va più? È seduta. Riusciamo a farlo ripartire? Tutto il volume, alto un po' il volume. No, però. Ho provato. Forse si è scaricata la batteria? La dice la signora lì che forse. Adesso ce la porta subito. Tu puoi iniziare meglio che io. Beh, adesso torna il microfono, ma intanto diamo la parola alla senatrice e presidente Emilia De Biasi, che ha avuto il ruolo di protagonista che grazie a Barbiero ha così bene illustrato. Comunque per un minuto torna anche. Sì, sì, ma penso di avere una voce che si sente abbastanza, al massimo mi viene un colpo di tosse, mi scuserete. Infatti, tanto grazie perché mi ha invitato, facendomi uscire anche un po' dal tunnel delle vicende della sanità italiana, che come avete visto in questi giorni sono vicende assai complicate e anche un po' tristi. Ecco, pensiamo alla vicenda del farmaco, dell'Avastin e della sentenza dell'antitrust, per fortuna, ecco, che ha svelato finalmente i termini di una truffa terribile non solo a danno del Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto a danno del cittadino, perché quando si può pagare un farmaco 80 euro lo si paga 1000, voi capite che tanta gente è rimasta cieca perché non aveva i soldi per potersi permettere quei mille euro a fronte di 80, facendo spendere al Servizio Sanitario Nazionale 700 milioni. Non, scusate l'indignazione, ma io trovo spaventoso tutto questo, spaventoso. E quindi a maggior ragione grazie di avermi sottratto per un attimo a queste preoccupazioni che, insomma, ci seguono ogni giorno, come è giusto che sia nel nostro lavoro. Questa volta qui, in questa legislatura, perché in quella precedente, come hanno detto sia Marco Boato che Grazia Barbiero, che ringrazio per le belle parole, io facevo un'altra vita, mi occupavo di cultura, e quando ci si occupa di cultura naturalmente, insomma, è il mestiere più bello del mondo, no? Cosa c'è di più bello che occuparsi della cultura? Adesso posso dire che c'è più bello anche occuparsi della salute delle persone, perché effettivamente è una cosa grande, però diciamo la cultura rimane sempre al fondo il grande amore della mia vita, e poi dirò che ci sono dei legami anche molto, molto belli e molto interessanti. Quindi quando Grazia, che era la mia assistente, è venuta da me e ha detto: sai, si dovrebbe fare il premio Langer, e io l'ho guardata dicendo: cavolo, bella roba, però un peso in più, no? Perché ecco, poi non so se voi avete mai lavorato con Grazia Barbiero, è una donna, devo dire, non asburgica, molto di più, è tremenda, e io ve lo dico, se vi dovesse capitare, sappiate che non molla il colpo, neanche Rottweiler al polpaccio, è così, e quando si mette in testa una cosa va fino in fondo, il che è una grande garanzia non soltanto di lavoro ma anche e soprattutto di qualità, e io le sono molto grata per gli anni che abbiamo fatto insieme, anche se l'avrei strangolata qualche volta perché faceva gli agguati, no? Perché mi aspettava per... dobbiamo vedere le bozze. Questo libro qui è stato discusso dalla prima all'ultima pagina, e il lavoro che lei ha fatto non è, come dirlo, perché riuscire a creare quella cartina dei diritti umani è stato un lavoro pazzesco, nessuno l'aveva fatto prima, le istituzioni non erano abituate, a fare delle schede in un libro aggiornate, perché le schede significano anche la valutazione di quello che sta succedendo in quei paesi, quindi era un punto politico molto, molto importante, e lei è riuscita a farlo appunto con la nota determinazione di cui si diceva, ma anche con una grande, grande cultura, perché Grazia Barbiero è una donna di cultura, questo io lo devo dire, lo dico con tanto piacere. E abbiamo discusso fino alle foto. Questa foto che c'è in copertina è stata oggetto di una discussione, io non so quante ore abbiamo fatto, è perché lei è arrivata con 50 foto, e quale mettiamo? Allora ne abbiamo selezionate, poi dopodiché abbiamo detto: però quietiamo un attimo, ci pensiamo su stanotte e ci vediamo domani. Io pensavo fra 2 o 3 giorni, o la mattina dopo alle 9, tac, era lì fuori dalla porta, mancava la labarda, prego decidere le foto. E alla fine abbiamo deciso insieme questa, che io ritengo una foto straordinaria, e non a caso abbiamo scelto delle giovani donne africane. Giovani donne che cosa fanno? Stanno parlando, stanno agendo, e quindi io vi pregherei di guardare questo libro anche nelle sue foto. Non sorprendi, anche le foto parlano, anche queste danno un segno. Per me è stata un'esperienza indimenticabile fare i premi Alexander Langer, non solo perché ho conosciuto la fondazione, che è fatta da persone straordinarie, a partire da Edi, e mi associo anch'io, insomma, per quello che ho potuto conoscerlo, insomma, a questo momento davvero di dolore gigantesco, penso, no? Gigantesco. Ma dicevo, non solo persone meravigliose, ma ho conosciuto una parte di mondo attraversata appunto dai diritti umani, e ho conosciuto Alexander Langer attraverso loro, attraverso Grazia Barbiero, attraverso la lettura dei suoi testi, e ne sono rimasta fortemente affascinata, perché la capacità profetica e anticipatoria è quello che mi ha colpito sempre tantissimo. Probabilmente io non sarei stata d'accordo sulla politica con Alexander Langer, è anche probabile, perché poi ognuno ha la sua cultura politica, le sue origini, le sue tensioni, e però io devo dire che quel messaggio di quella persona in quel momento ha scardinato talmente tanto la politica che dura ancora oggi, e questo è il segno di un grande, ed è per questo che a maggior ragione il premio Alexander Langer ha un significato e ha un senso, e dà un senso profondo. Quando la politica è una bella politica vengono fuori dei bei libri, ma vengono fuori anche idee che non muoiono, e devo dire che il filo rosso del pensiero di Alexander Langer in tutti i premi che abbiamo dato in quei 5 anni si è visto in modo davvero chiarissimo e molto molto molto forte. Lo si è visto, io lo voglio dire, su un punto di estrema modernità, quando lui per esempio parla dei trattati senza anima, a cui contrapporre la cultura dell'esempio. Oggi lo diciamo tutti, no? Oggi è diventata quasi, diciamo, è una parte della teoria diplomatica, no? Vale di più un esempio che non il trattato, perché magari il trattato rimane lì sulla carta. E beh, oh, lui 30 anni fa diceva queste cose prevedendo l'esigenza, l'istanza, il bisogno in un mondo così segnato dalla guerra, dalle contraddizioni, dalla fame, dalla paura, dalla sete, dalle guerre, prevedeva il bisogno di persone, di esseri umani che fossero l'esempio. L'abbiamo visto ai funerali di Mandela, no? Come ormai tutto diventa planetario, e Alex meriterebbe uno sguardo planetario. Alex e il suo pensiero lo meriterebbero davvero. E in occasione di uno degli incontri più significativi, di alcuni ne ha parlato molto bene Grazia, io ne voglio ricordare uno che mi ha colpito in particolare. Voi dovete sapere che ogni volta sono successe cose inenarrabili mentre preparavamo il premio Langer alla Camera, perché una volta hanno rapito i premiati e non li abbiamo mai più trovati, un'altra volta hanno rubato i passaporti alle persone che venivano da Haiti. Davvero, vi assicuro, cioè, l'idea, abbiamo toccato con mano quanto sia miserabile e terribile questo mondo nei confronti di chi fa soltanto del bene, insomma. E fra quelli che mi ha colpito di più, grazie a lo sa, è quello del villaggio di Ayub, perché si parla di una donna, però si parla dei bambini, e di questi bambini non si parla davvero mai. Questi bambini sono segnati da un'invisibilità tremenda, che siano i bambini di cui parlava Grazia, che siano, a me è capitato una volta in treno, stavo tornando, ero una studentessa, non avevo soldi, ero in seconda classe, roba pazzesca, ero andata a Berlino, tornavo da Berlino e sono capitati in questo scompartimento due bambini che forse raggiungevano i genitori, forse no, non lo so. E si sono infilati nel nostro scompartimento terrorizzati perché erano inseguiti dal capostazione, dal capotreno, e noi li abbiamo protetti, e il capotreno, quando ha visto che li proteggevamo noi, non poteva buttarli giù dal treno, no? Se no sarebbe stato, non so, E io non posso dimenticare quando siamo arrivati a Dresda, il treno si è fermato e questi due bambini ci hanno guardato, ci hanno dato un bacio con una gratitudine incredibile. A me è rimasto nel cuore questo. E io penso davvero che noi dovremmo guardare un po' di più alla condizione dell'infanzia nel mondo, perché è un'infanzia violata. E in questo caso parlavamo del villaggio somalo di Ayub, e c'era questo racconto di un bambino che viene trovato. Tenete conto che gli educatori che dovevamo premiare sono stati rapiti e forse buttati nelle fosse comuni, al punto che il prete Don Elio Sommavilla, che insomma coordinava i lavori in questo villaggio, ci ha chiesto di non fare comunicati stampa, di non dire niente per la paura che potesse essere ancora peggio la rappresaglia. Questo che cosa vuol dire? La violazione del diritto umano. E lì si parlava di questo bambino che era andato al pozzo a prendere l'acqua e l'hanno trovato di fianco al pozzo e hanno detto: ma dov'è tua mamma? e lui li ha portati dalla mamma, dice: ma la mamma non mi vuole più parlare. E questo bambino vegliava la mamma morta da 3 giorni ed era solo e abbandonato, e in questo filmato si vede poi questo ragazzo, questo bambino che è diventato ragazzo istruito, che gioca a pallone, che ha ricostruito una vita, a cui è stato dato un futuro. E allora io dico, più del Nobel il premio Langer quando tocca questa invisibilità, questi eroi invisibili della piccola grande storia, ed è quindi la gratitudine. E c'è una frase di Alex Langer che io vi voglio leggere, che a me è venuta in mente in quel momento: e noi che non siamo profeti, noi laici animati da migliaia di dubbi e di paure, ossessionati dal timore della perdita, così affannati nella ricerca di soluzioni alle enormi disuguaglianze del mondo, al punto da smarrire la certezza dei grandi valori, non possiamo anche oggi che ammettere lo scarto fra le intenzioni in favore della dignità umana e le realizzazioni. Ma nel contempo sappiamo che sarà impossibile sfuggire al dovere morale, prima ancora che politico, di essere dalla parte di coloro che soffrono per la mancanza di democrazia, di condizioni decenti di vita, di dignità, oltre a ogni ideologia, credo, cultura, per essere finalmente degni di appartenere al comune destino della società umana. Questo era Alexander Langer. Questo mi permette di salutare con grandissima stima e grandissima gioia il professor Graf oggi, e di salutare con gioia il fatto che abbia preso il premio Langer, che i donatori di musica abbiano preso il premio Langer, perché dicevo all'inizio, io mi sono occupata di cultura, oggi mi occupo di sanità. Cosa c'è di più bello che unire la cultura e la salute e fare cultura della salute, come fanno i donatori di musica? È un'esperienza, io credo, che cambi le persone interiormente. Noi siamo abituati a un'idea molto rigida di salute, molto istituzionale, molto ospedalocentrica, molto come dire, un'idea della cura come un qualcosa di irreversibile. Beh, noi sappiamo che è esattamente come la vita. La malattia è esattamente come la vita, ci attraversa, non si muore, non si guarisce, si rimane in una condizione di incertezza, ma se ci pensiamo questa incertezza è la stessa incertezza che anche le persone che non sono ufficialmente malate hanno, perché comunque tutti noi portiamo dentro di noi la paura della morte, tutti noi portiamo dentro di noi la paura dell'altro, la paura che succeda qualcosa all'altro che noi amiamo. E il contatto con la cultura, con la musica, che è il linguaggio più antico, preesiste anche alla parola, quindi è il primo, no? Il suono è la prima cosa che noi sentiamo, il suono, prima ancora di imparare a parlare, perfino a vedere, credo, no? E questo linguaggio, che è un linguaggio universale, attraversa queste persone che sono malate e attraversa le persone che curano queste persone, ed è da questo specchiarsi l'uno nell'altro che io credo che nasca il senso profondo di questa esperienza. Non è la fruizione estetica di un brano musicale, potremmo sentirlo in qualunque momento, anzi, come dice Bauman, è talmente tutto consumo oggi, no? Che consumiamo anche la musica, non ci fermiamo mai a pensare, no? E invece credo che sia qualcosa di più profondo di una semplice, pure importante, fruizione estetica. È l'emotività, è un linguaggio, è un richiamo a ciò che noi abbiamo di profondo, è il momento in cui ci solleviamo per un attimo dalla nostra condizione terrena, ed è straordinario. Shakespeare nel Mercante di Venezia dice: guardati dall'uomo che non ama la musica, ed è proprio vero, ed è proprio vero. E allora questo intreccio fra i diritti umani, l'arte, la bellezza, ci dà una dimensione della nostra quotidianità come una quotidianità che possiamo accettare più semplicemente, accettarne la fatica, accettarne le sconfitte, accettare la fine, accettare il dolore, eh? La cultura del dolore, c'è un libro bellissimo, Di fronte al dolore degli altri, e di fronte al dolore degli altri noi abbiamo paura. Ecco, la musica ci aiuta ad avere meno paura, perché ci dà quella forza che ci dà soltanto qualcosa che è eterno, che va oltre noi, eh? E che siamo credenti o non lo siamo, che crediamo in un al di là o non lo crediamo, però io credo che esperienze di cultura della salute ci fanno uscire da quell'idea un po' asfittica che tutto è mercato, che tutto è consumo, per farci entrare in un'altra dimensione, quella dimensione che è la dimensione della relazione con l'altro, che poi in fondo, se ci pensiamo, è la cosa più importante che abbiamo, quella di uscire dalla nostra solitudine e di riconoscere nell'altro non le nostre paure, ma l'altro da noi, che ci aiuta tantissimo a riconoscere noi stessi i nostri limiti, ma anche le nostre capacità, la nostra capacità di amare alla fine. E quindi io mi voglio complimentare davvero tantissimo con il professore, con la loro esperienza e con la Fondazione Langer, che ancora una volta ha fatto centro. Grazie. Adesso il professor Claudio Greif, primario di oncologia qui a Bolzano, promotore dei donatori di musica, premio Langer 2013. Purtroppo non c'è più il microfono, ma il microfono cercherò di farmi sentire, nonostante sia un po' raffreddato, scusate la voce, ma perché presto. Ora, grazie per quello che è stato detto. Credo che quello che ha detto la senatrice poco fa sia bellissimo, perché è un'altra delle persone che in 448 ha capito perfettamente quello che noi stessi non avevamo capito. Perché si alza, la sentiamo molto. Sì, sì, perché non la sentono. Perché quando l'anno scorso, esattamente un anno fa, vennero Edi Rabini e l'allora presidente della fondazione Anthony Collodi a dirmi che avevano selezionato la nostra associazione per ricevere il premio, oltre alla gioia, allo stupore ovviamente, perché era l'ultima cosa che pensavamo, c'era anche una sorta di perplessità in me, che diceva: ma e noi cosa c'entriamo? È una cosa un po' strana, non capivo quale potesse essere il parallelo. Se si va a leggere le motivazioni, noi così facemmo, poi andammo a leggere le motivazioni del premio, abbiamo capito che nessun testo era mai stato scritto prima di allora che così bene rispecchiasse quello che era realmente lo spirito di quello che cercavamo di fare, e che adesso magistralmente ha ridetto la senatrice. E a me stupisce sempre vedere come così tante persone riescano a capire così bene quello che stiamo facendo. Una cosa che per noi non era affatto chiara all'inizio, perché questa è un'esperienza che è nata in modo molto pratico, diciamo così. La prima esperienza è stata all'ospedale di Carrara, dove si è trovato ad essere ricoverato per curare il suo tumore un musicologo e produttore discografico, il quale ai suoi medici disse: è un anno che io mi devo concentrare sulla cura della mia malattia, non posso più avere neanche un attimo per dedicarmi a ciò che veramente mi interessa, a ciò per cui ho sempre vissuto, che è la musica. Perché? Cosa facevi? Cosa fai? Dice: io organizzo concerti. E allora fanne uno qui, gli risposero. Da questa esperienza pionieristica ne seguirono altre, a questa ne seguirono altre, poi se ne parlò, e alla fine nacque l'idea, all'inizio del 2009, di costituire una vera rete di musicisti, ammalati, medici, volontari, che portasse la musica come presenza continua, non estemporanea, nei reparti di oncologia, ma non è riservato e limitato a questo, è nata in questo tipo di reparti, per ora agisce in questo tipo di reparti, in quattro sedi italiane, ma già quest'anno raddoppieremo le sedi interessate e usciremo anche dall'alveo della sola oncologia. Quando cominciamo a capire che qualcosa di importante succedeva in questa esperienza dei concerti in ospedale, ci ponemmo da un lato il problema che questo non poteva restare un patrimonio isolato di due ospedali, ma dall'altro anche che fosse necessario mettere qualche regola per l'esportazione. E questo lo facemmo in occasione del primo convegno nazionale di donatori di musica, che si tenne a Bolzano nel 2010, dove stabilimmo una serie di piccole regole. che garantissero il mantenimento dello spirito originario. E tra queste ne voglio ricordare solo tre che sono essenziali perché testimoniano dell'esistenza di un terreno preparato, senza il quale noi siamo convinti che questa iniziativa non abbia senso. Cioè non si può in qualsiasi realtà andare, portare dei concerti e pensare che si vada oltre la fruizione estetica di cui diceva giustamente la senatrice. Per dispiegare quegli altri potenziali di cui accennava è necessario che in quei reparti vi sia già una abitudine al dialogo, alla condivisione, il vero senso dell'empatia, che non automaticamente è sempre presente. Quindi i reparti ospedalieri devono dimostrare di avere una particolare attenzione alle persone, e questo lo devono dimostrare con degli atti molto semplici: le modalità di organizzazione del lavoro, la possibilità che hanno dato, danno abitualmente agli ammalati, di avere un medico di riferimento, un infermiere di riferimento, possibilmente di ripetere l'accoglienza e i trattamenti nelle stesse posizioni e nelle stesse sale, in modo che uno si trovi un pochino più familiarmente nell'ambiente. Ma anche qualcosa di molto più importante, quale un'eccellenza clinica documentabile. Bisogna che queste parti abbiano almeno un punto nel quale hanno una certificazione d'eccellenza. Questo perché sia molto chiaro che questi progetti si accompagnano e devono accompagnarsi comunque all'eccellenza clinica, certo. E non si deve abdicare a quello che è il massimo della tecnologia, della capacità scientifica e medica per porre in essere queste iniziative. E secondo, una attenzione particolare nei confronti di una revisione del concetto di cura, e cioè ritornare al concetto originario di una cura che è prima di tutto relazione fra persone, una cura nella quale vi è una parte che si inscrive in essa, che è la terapia, ma che non si esaurisce nella terapia stessa. E cosa abbiamo capito con questa esperienza nella quale i musicisti vengono gratuitamente in ospedale e ci donano un concerto? Diverse cose. La prima sicuramente è che questo è un modo nel quale si rende evidente quella che è la cosa centrale di ogni, diciamo così, esercizio medico, cioè la relazione. La centralità della relazione trova proprio una sua dimostrazione in questo momento dei concerti, nei quali si supera la cristallizzazione fra i ruoli, che ha portato al paradosso di quello che io definisco volentieri e spesso della creazione dell'ammalato professionista, in cui uno recita la parte dell'ammalato, fa l'ammalato e non fa nient'altro, in cui io, che faccio il medico, non so nemmeno che persona ho di fronte, perché in quel momento lui deve incarnare la parte dell'ammalato, che poi sia un letterato, poeta, musicista, ingegnere, geologo, non interessa a nessuno, che abbia certi interessi, non è questo che fa parte dell'alveo di interessi della medicina. Ed è un errore, perché è chiaro che se noi sostituiamo alla parola paziente la parola persona e alla parola terapia la parola cura, andiamo a comprendere qualcosa di molto più vasto di quello che altrimenti riduttivamente si andava a considerare. Poi donatori di musica anche come un tentativo di far percepire l'ospedale come un luogo di salute e di benessere e non solo di malattia e dolore, quindi un ospedale che tu scegli. Oggi non ci devo andare perché devono farmi qualche cosa, ci voglio andare perché ci succede qualcosa di bello a cui non voglio mancare. E fra di voi c'è qualcuno che queste cose le sa molto bene, perché è venuto e viene ai nostri concerti. Donatore di musica anche come normalizzazione, cioè come tentativo di portare quell'attimo o un attimo di quella normalità perduta che nel momento della malattia ci sembra essere qualcosa di estremamente distante da noi. Donatore di musica come impegna un'attenzione globale. Dottore di musica come però anche un vero e proprio strumento di cura, perché noi abbiamo visto che con questa esperienza è possibile ricomporre la lacerazione del vissuto e dello spazio-tempo nell'ammalato e nel suo gruppo familiare. Intendo dire che portare sollievo attraverso esperienze di normalità e di bellezza che siano collocate dentro lo spazio-tempo della malattia, non al di fuori di essa, riduce e evita attendo quella dicotomia che altrimenti si realizza nel oggi mi devo ricordare che sono ammalato, oggi devo fare questa cosa. Certo, ieri non ho pensato un attimo di essere ammalato, ho fatto delle cose e vivo questa lacerazione tra quello che credo di essere e quello che quando vado in ospedale mi ricordano che in realtà io sono. Ecco, la ricomposizione di questa lacerazione è sicuramente aiutata da questo momento. La deprofessionalizzazione, l'ho detto. Il collegamento di un senso e di un significato veri alla sofferenza. E, come diceva anche la senatrice Pina, la ricerca della valenza culturale di ogni esperienza, compresa quella della malattia. Non basta umanizzare o riumanizzare la medicina, noi crediamo che si debba armonizzare la pratica medica per portare ad un rinnovato e laico umanesimo in medicina. E poi ancora, perseguire l'eccellenza nell'accoglienza e contribuire così all'eccellenza clinica, intesa l'accoglienza come quell'atto bidirezionale nel quale arriva un ammalato nel suo studio, io l'accolgo, ma anche lui deve accogliere me, perché se non mi accoglie dentro di sé, la nostra alleanza non potrà dispiegarsi. E infine, aprire gli ospedali alla compartecipazione della società esterna, la quale partecipa alla formazione di un percorso di cura, che è una cosa fondamentale per compiere il passaggio da una tecnica della cura alla cultura della cura, come diceva e scriveva lo storico della medicina Dietrich von Engelhardt, quando dice: si dovrebbe trasformare la medicina da tecnica di guarigione in cultura della guarigione, in modo che nella conoscenza scientifica a contatto con il dolore, nella descrizione e anche nelle risposte terapeutiche, essa tenga presente le dimensioni del dolore che noi possiamo acquisire dalla sua storia culturale, perché senza dubbio il dolore, che è una delle motivazioni originarie della medicina, non può essere ridotto soltanto alla biologia. Il dolore è un tema della psicologia, della sociologia, della filosofia e, se vogliamo, anche della teologia. E se si considera la storia culturale del dolore, si potrà ripetutamente osservare che il dolore costituisce un anello di congiunzione tra natura e cultura. Di qui il possibile ruolo curativo della musica, che riesce a riportare per un momento la bellezza, la normalità, la gioia nel tempo e negli spazi anche fisici della malattia, ma che, quale linguaggio universale, sa anche interpretare e sublimare il dolore del mondo e anche il nostro dolore personale, senza doverlo conoscere. E i musicisti ricevono dagli ammalati il dono della condivisione di un senso della vita che paradossalmente proprio l'esperienza della malattia ha permesso loro di scoprire, la forza della speranza e il significato che hanno saputo collegare alla loro sofferenza. E allora, e qui concludo, ora può forse sembrare chiaro perché ci riconosciamo appieno nelle motivazioni del premio Langer 2013 e nelle definizioni generali scritte in questa frase di Alex Langer che c'è sulla prima di copertina del libro. Costruttori di ponti? Forse anche noi, perché con il nostro progetto cerchiamo di affermare il concetto di non violenza di una medicina che attualmente tende ancora ad istituzionalizzare il malato e di fatto a spegnere il suo essere persona. Saltatori di muri? Dottori di musica è una semplice e imbarazzante rivoluzione che quotidianamente pone al centro non il malato, ma la costruzione di una relazione con lui, come persona che può anche dare e offrire. Ci proponiamo di superare l'alleanza terapeutica per giungere ad un'alleanza globale di cura, con il concorso di forze esterne e di mezzi di cura diversi ma alleati, mai asserviti nella medicalizzazione di ogni bisogno e della conseguente risposta. Condivisione di dare ed avere tra persone nella circolarità del rapporto, testimoniata dalla circolarità del dono di musica, oltre i ruoli istituzionali. E infine, esploratori e esploratrici di frontiera? Forse sì, costruzione di un nuovo tipo di relazione tra medico e ammalato, in cui l'obiettivo di cura diventa davvero un obiettivo comune e la via per raggiungerlo diventa una strada che non deve essere mai più percorsa da soli. La ricerca comune di un nuovo modo di vivere la presenza in ospedale, destrutturando archetipi convenzionali, non più in grado di dare credibili risposte alle mutate esigenze di cura legate anche alla transizione epidemiologica dell'ultimo secolo, dalle malattie acute verso le malattie croniche, quindi con tutti i bisogni che cambiano in relazione a questo cambiamento. Laddove proprio la medicina ipertecnologica dimostra la sua insufficienza se non viene inserita quale momento di eccellenza tecnico-scientifica nella cornice di un'eccellenza globale. Di nuove relazioni inedite e dinamiche, in gran parte ancora tutte da esplorare. Grazie. Grazie. Grazie. La Grazia Barbiere, Emilia De Biasi e Claudio Greip. Se volete, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, se qualcuno di loro vuole fare qualche domanda, portare qualche testimonianza, fare un breve intervento, il tempo ci sarebbe. Prego. Ovviamente non c'è il microfono, quindi bisogna parlare ad alta voce. Brevissimo. Quello che si è dimenticato però è che Landia non era solo un teorico, ma agiva anche molto nella pratica. E sto facendo adesso anch'io la provocazione che in genere faceva anche lui. Io non sono d'accordo, cioè va bene questo, però non sono d'accordo che gli italiani facciano le loro cose e che i tedeschi le facciano separate. Lui aveva sempre collaborato, sempre agito per far funzionare le cose bilingue o anche trilingue come gabellesi. Era stato anche uno tra i fondatori del ciclo Cultura Centrum, che parlando appunto di cultura si è occupato del monopolio a Bolzano e dopo contro anche quasi tutti i circoli culturali. C'era il Circolo Cultural Centrum, c'erano le arti visive che erano a favore, erano venuti gli studenti delle superiori, per cui eravamo tutti in maggioranza, mentre gli altri erano minoranza, gli altri circoli culturali, e abbiamo occupato il monopolio. E dall'occupazione del monopolio è uscito uno spettacolo di teatro di Bertolt Brecht, Testa punta e teste tonde, dove gli italiani parlavano italiano, i tedeschi il tedesco, anche i gardenesi che parlavano l'italiano e il tedesco purtroppo. E allora ecco, quello che a me, oggi va bene, però quello che a me dispiace molto è che con tutto il lavoro che aveva fatto Langer, anche la prima cosa che lui aveva fatto, che io avevo conosciuto in quel periodo, c'era parlando appunto di cultura, al House of Culture un pezzo di forse era proprio Bertolt Brecht, e l'avevano stravolto questa lingua tedesca in modo che non sembrava quasi più Brecht, perché era troppo il pezzo originale, troppo di senso. Beh, Langer con altri studenti di Vienna, di Innsbruck e così sono saliti sul palco e hanno interrotto lo spettacolo. Cioè, questo voglio dire, anche un po' anche bisognerebbe cominciare a agire. Oh, scusate, interrompe un po' di tempo. Qualcun altro, qualcun'altra, qualche signora che volesse dire qualcosa o domandare qualcosa ai nostri, alle nostre relatrici e al nostro relatore? Li abbiamo schiantati. No, prego, prego. No, no, signora, prego. Bisognerebbe che il signore che è davanti a lei non parlasse, perché già si fa fatica. I rapporti fra italiani e tedeschi persone che potrebbero andare molto meglio. Hanno fatto da Langer in poi un grande progresso, ma è piccola parte, però bisogna tenere presente che il bene e il male è da tutte e due le parti sempre. Oggi ho sentito, scusi, perché ha fatto un intervento bellissimo, proprio bellissimo, però il nominare solo l'assessore tedesco, che io conoscevo benissimo e che ho criticato miliardi di volte, il famoso Zelger, e in quel periodo c'era anche l'assessore italiano, che non è che anche adesso ancora, anche adesso sono ancora gli interventi che si fanno, ma caspitella, i bambini italiani e tedeschi sono molto più bravi degli adulti, molto più bravi degli adulti, perché un po' incominciano. Sarà lungo sto processo, però sempre quando io vado in un ambiente di questo italiano sento, quando vado in un ambiente tedesco tipo sento. Grazie. D'accordo. Grazie. C'è ancora qualcun'altra, qualcun altro che vuole intervenire? Forse sì, forse no. Forse no. Bene. Qualcuno magari della Fondazione Langer, che vedo qui presente, anche da Trento, c'è il nostro amico De Bernardis. Se qualcun altro vuole intervenire. No, se no non forziamo. Io rinnovo il ringraziamento. Tu, grazie, volevi tu dire qualche parola? Tutto bene, no, davo solo ragione alla signora. Allora io rinnovo il ringraziamento alla dottoressa Trevisan e alla biblioteca che ci ha ospitato. Grazie. Vi ricordo che se qualcuno vuole comprare questo libro ce ne sono copie a disposizione e non so dove siano, e anche il fascicolo eventualmente sul fondatore, sui promotori di Monaco, sui donatori di Monaco. Buonasera, buonasera. La commissione con lei c'è anche una